Zolt. Fulminati in azienda. Allora, carissimi, dobbiamo fare il planning delle prossime attività in vista del periodo estivo. Come sapete, quest'anno, su pressione di schedule e per mia bontà, ho elargito ferie a go-go per tutti. E mi raccomando di tornare indietro contenti, eh. Mi raccomando. Allora, per piacere. Sì. A luglio io e la Fond dobbiamo preparare il piano delle convention con i venditori. No, Marco, a luglio non è possibile, io non ci sono. Ho organizzato il viaggio alla ricerca dei sensi in Oriente, non ricordi, con la mia amica Giada La Rossa. Bello, la Fond, ti fai massaggiare da Thailandia alla Cina? Ma che dici? Un tour a contatto con i colori e i sapori, un'aromaterapia on the road. Sì, non ma in Giappone se mangiano i brugni. Per piacere, bando alle ciance, dai. Vabbè, allora la Fond lasciamo perdere, lo prepariamo quando torni, okay, dai. Con schedule invece dobbiamo ristudiare il performance management per le vendite, perché gli voglio tirare il collo a questi venditori. Sì, che bello, potrei confrontarmi con i modelli più all'avanguardia in Europa e con il luminare della materia. La schedule, l'unico con cui te potrai confrontare è sul pezzo. Bravo, Centri, vedo che hai capito. Diciamo, schedule, che potremmo vedersi nella prima quindicina di agosto. No, Marco, sono in barca a vela sull'Egeo, dal 20 luglio al 20 agosto. Abbiamo noleggiato un 12 metri bellissimo, guarda. Sì, vabbè, ma scusa, allora ditelo, se volete far fallire l'azienda, ditelo allora. Marco, però approfitta, no? Prenditi una vacanza, goditi la tua famiglia, tanto c'è Paco che pensa a tutto. Ma cosa dici, uè? Io in vacanza con la mia famiglia? Ma allora ditelo che mi volete vedere morto. Pronto? Sì, Silvia, però veloce, ho un sacco, sono al lavoro, un sacco di cose da fare. No, che decisione dobbiamo prendere per quest'estate? Non ho capito. Vedere vacanza. Va bene, prendi la casa a Porto Cervo dove vanno le tue amiche, va bene, dai. No, ci mancherebbe, ovviamente prendi anche il posto per la tata. Ma come la tata è in ferie d'agosto? E la badante? Ma scusa, ma allora siamo in ferie io, te e i bambini? No, io, te e i bambini, tua madre e la badante? A Marco, ma che sta a fa? Sta a piangere. No, Centri, te lo devo dire, a te te lo devo dire. Dai, siamo stati compagni di mille avventure, io non vedo l'ora che finisca questa vacanza. Ma non è manco iniziata la vacanza. Appunto, ma io non vedo l'ora che finisca, sto già boccheggiando io, voglio tornare a lavorare. Lo so, perché tu, Marco, sei un uomo de business, sei una bestia da soma, un animale da fatica. Ascolta, intanto ricordati che sono il tuo capo, però piano con le offese, cioè sarei più un cavallo di razza, però a me... Io te lo devo dire, i ragazzi mi sfiniscono. Lo so, a chi lo dici? Mia moglie mi annoia da morire, proprio. E mia suocera. Tu suocera te devasta. Ma vedi che lo sei anche tu. Tu sei un uomo che mi capisce. Lo so. A capo, prendi il fiato, rassegnati, eh. Centri, ti prego, regalami uno scampolo di felicità, uno spiraglio di luce. Capo, non te posso vedere così, sono abituato a vederti incazzato. Dai, vabbè, dimmi che faccio tutto il possibile, dai. Centri, fammi restare qua, ti prego, dammi 10 progetti urgenti. Ma che sta a dire, Marco, non si può, ma che... E allora fammi un piacere, dai, vieni con me a Porto Cervo, Centri, dai, ti prego, ti metto nella dependance, dai, porti anche Paco... Non mi lasciate solo, per piacere, a me le vacanze mi distruggono. Zolt, fulminati in azienda. In edicola con il Sole 24 Ore, il libro rivelazione e il CD audio con la prima fiction umoristica che racconta i paradossi delle aziende.